in primo piano. Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa di Radio 24, sono Giulia Crivelli, bentornata appunto a me, era una settimana che non ci sentivamo, oggi è lunedì 26 agosto, come avete sentito dal GR in primo piano c'è la politica, anche se come sempre la cronaca ci supererà nel corso delle ore, nel corso della giornata, ma i quotidiani si concentrano nei loro titoli di apertura su quello che è successo ieri, sulle ultime dichiarazioni da una parte del centrosinistra, del centrodestra e del Presidente del Consiglio. Il Corriere della Sera apre su questa notizia appunto e con un virgolettato di Letta: la crisi ora è una follia, PDL sotto accusa al fronte dei falchi. Tantissimi gli editoriali, gli approfondimenti, anche se sono appunto editoriali e approfondimenti, poi vedremo, davvero siamo tutti qui appesi a quello che poi davvero decideranno di fare i protagonisti di questa vicenda. Quindi il Corriere della Sera ha un retroscena di Paolo Di Caro e Silvia, di Paola Di Caro, e Silvio riflette sull'attacco in TV, e poi in primo piano una intervista di Daria Gorodischi a Luciano Violante, esponente del PD. Berlusconi ha diritto alla difesa, questa è la sintesi dell'intervista che poi trovate a pagina 9. Una retroscena di Tommaso Labate, i mediatori e l'idea dell'esecutivo bis, questo lo trovate a pagina 6. E poi un editoriale di Ernesto Galli della Loggia, La solitudine dei moderati, sul futuro del centrodestra e le famose due ipotesi, o le dimissioni, un eventuale, quello che Ernesto Galli della Loggia chiama un tramonto politico di Berlusconi, cioè che Berlusconi si chiami fuori, gli arresti domiciliari, insomma tutte le ipotesi di cui ormai abbiamo sentito molto parlare e che però nessuno di noi sa davvero prevedere quale poi si verificherà. L'altro titolo importante della prima pagina del Corriere della Sera riguarda la Siria. Gas in Siria, Obama preme, Damasco apre agli ispettori dell'ONU, ma gli Stati Uniti dicono è tardi. Da Mosca le reazioni di Mosca invece: non ripetere vecchi errori, perché Mosca è contrarissima a un intervento della comunità internazionale diretto nel conflitto siriano. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo un'interessante analisi di Jan Bremmer, un economista, che si intitola L'inquieto futuro dei mercati emergenti. È uno dei temi economici di questi giorni, quello appunto del rallentamento dell'economia dei mercati emergenti. Vi leggo le prime righe. Nei 5 anni successivi all'inizio della crisi finanziaria, i poteri costituiti del mondo hanno lottato per riconquistare fiducia. Tuttavia, la polarizzazione politica che sta peggiorando a Washington non può oscurare i segnali di un rafforzamento dell'economia degli Stati Uniti. I leader europei hanno usato la crisi dell'Eurozona per cominciare ad affrontare molti disegni di legge dell'Unione Monetaria e il continente emergerà più forte negli anni a venire. Il Giappone ha compiuto progressi significativi nel suo recupero dal triplo disastro del 2011 e la Abenomics, il piano del primo ministro Shinzo Abe per far ripartire l'economia del Giappone, ha avuto un inizio promettente. Il resto del ragionamento lo trovate a pagina 33 e si occupa appunto di tutti quei mercati che chiamiamo BRIC, ma anche di quelli che ormai Jan Bremmer ci indica come gli ME, cioè i veri e propri mercati emergenti, quindi Cina, India, Brasile, Turchia e tanti altri. Sotto l'articolo di pagina di Jan Bremmer, sempre a pagina 33, un altro editoriale sul tema dell'economia e delle riforme di Paolo Savona, un economista che ha preso carta e penna e ha scritto direttamente al Corriere della Sera per rispondere a un articolo di Michele Salvati, sempre in tema di riforme. L'articolo si intitola Riforme da fare e non solo in Italia. E visto che abbiamo parlato di economia e che, come vedremo anche in altri editoriali, il tema della crisi di governo si intreccia strettamente con quelli dell'economia, vediamo la prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì, che sapete è proprio un numero di approfondimento del Sole 24 Ore, sì, è un po' più staccato dalla cronaca, più invece focalizzato sugli approfondimenti. Ecco allora l'apertura, l'agenda di settembre: casa, debiti della pubblica amministrazione, fisco e lavoro, i nodi sulla strada della ripresa. Tra IMU, IVA e risorse per la CIG, la cassa integrazione, una partita che vale fino a 6 miliardi. Il Sole 24 Ore spiega come l'instabilità politica metta a rischio una serie di scadenze importanti. avanti. E l'editoriale è di Dino Pesole, si intitola Un tornante decisivo, la posta in gioco, un tornante decisivo, vi leggo la prima parte. Sarebbe paradossale se l'Italia, proprio ora che cominciano a concretizzarsi i primi segnali di ripresa, si avvitasse in questioni di politica interna. L'avvertimento lanciato mercoledì scorso dal Presidente del Consiglio Enrico Letta al termine della sua visita lampo a Vienna sintetizza con efficacia i termini della questione. Ancor più esplicito è stato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: di tutto abbiamo bisogno fuorché di ripiombare nel vortice dell'instabilità e dell'incertezza politica, a soli 4 mesi dalla nascita del governo delle larghe intese. L'articolo prosegue a pagina 2 dove, come vi dicevo, c'è un elenco proprio di tutte queste scadenze che si intrecciano con i destini del governo. Il 31 agosto si decide sull'IMU, il 15 settembre sui debiti della pubblica amministrazione e il 30 settembre sul famigerato aumento dell'IVA. C'è poi a pagina 7, vi segnalo un approfondimento che sulle possibili vie della ripresa, ricette a confronto, lezione tedesca e inglese per la domanda interna, una pagina a cura di Chiara Bussi che ci spiega cosa è stato fatto negli altri paesi per far ripartire quella famosa domanda interna che è così importante, nel senso abbiamo visto spesso negli ultimi giorni spiegare come l'economia italiana, anche le imprese italiane si stiano salvando grazie all'ex Export. È però molto importante per una vera ripresa una ripresa appunto della domanda interna. E allora Chiara Bussi prende in esame quello che hanno fatto Germania, Gran Bretagna, Francia e Portogallo, dove appunto riforme, sgravi e liquidità hanno fatto ripartire i consumi e gli investimenti, che sono appunto le due voci, i consumi delle famiglie e gli investimenti per le imprese, per far ripartire la domanda. Vi ricordo la serie degli approfondimenti che è andata avanti per tutto agosto, è iniziata all'inizio di agosto del Sole 24 Ore. Una riguarda la casa e oggi a pagina 8 trovate un approfondimento sul bonus mobili, quelle detrazioni sugli arredi, e si spiega come veramente ottenerle, il famoso bonifico parlante, cioè è importantissimo appunto l'uso del bonifico, ma ci sono come sempre tutte proprio i consigli pratici su questo tema del bonus mobili. E invece per quanto riguarda il portafoglio, l'altra serie di approfondimenti agostani del Sole 24 Ore, oggi ci si occupa a pagina 20 delle obbligazioni con tutte le proposte delle banche. La domanda è come selezionare questi bond bancari che ci vengono proposti, una pagina a cura di Guido Plutino che ci spiega come la cedola staccata in agenzia non è più campione di incassi, con la solita sezione sui profili di investimento per chi ha per esempio meno di circa 28 anni, invece le coppie di 30, le coppie di 50, le coppie di 65. E con i consigli operativi, come al solito, per gestire al meglio il proprio portafoglio. Un altro approfondimento dal Sole 24 Ore, pagina 17, a cura di Francesca Barbieri, è una ricerca che prende in esame tutte le cariche imprenditoriali. Questo dato ci spiega che dal 2008 sono calate del 18% le cariche under 30. Quindi la crisi ha messo in crisi, scusate il gioco di parola, anche appunto gli imprenditori più giovani. C'è una mappa che ci spiega come gli imprenditori giovani ogni 1000 abitanti siano appunto calati in tutte le regioni tranne la Basilicata, che fa eccezione. Dal 2008 ad oggi in questa regione sono invece cresciuti dell'1,5%. Dal Sole 24 Ore del lunedì, come sempre, il dorso L'Esperto Risponde, che come sapete è una raccolta delle domande dei lettori ai quali gli esperti del Sole 24 Ore rispondono. Oggi l'approfondimento è sul supercondominio. Sapete che è cambiato da poco le regole sul condominio. Ci sono naturalmente, come sempre purtroppo in Italia, molti modi di interpretare, molte difficoltà nell'interpretare le nuove leggi. E qui gli esperti del Sole 24 Ore hanno raccolto le domande più interessanti dei lettori e hanno risposto. Ma veniamo alla prima pagina della Repubblica. anche in questo caso l'apertura è tutta politica, Epifania Berlusconi basta ricatti. Ieri il segretario del PD infatti è tornato a ripetere, per l'ennesima volta possiamo dire, che nel famoso voto previsto per il 9 settembre, a meno che non slitti, della giunta del Parlamento, il PD voterà sì alla decadenza di Berlusconi dalla carica di senatore per via della condanna definitiva nel processo Mediaset per i fondi neri. Anche qui moltissimi i commenti, ce n'è uno di Ilvo Diamanti, il cavaliere è entrato in campagna elettorale, e tutta la cronaca, da pagina, addirittura da pagina, praticamente da pagina 2 a pagina 8, si parla solo appunto dei destini del governo. Vi segnalo come sempre l'approfondimento di Francesco Merlo, che questa volta si occupa in particolare di Daniela Santanchè. L'articolo si intitola La pitonessa in guerra nella fattoria di Arcole. Vi leggo le prime righe e poi continuo a pagina 9. L'animale dispettoso, quello che per natura tira calci, la signora Santanchè. Ma nella vecchia fattoria Ia Ia O conta solo zio Tobia. Non bisogna insomma credere che sia vera politica quel che sta accadendo nel PDL dopo l'intervista a Monella di Daniela Santanchè a Repubblica, con tutti quei pestoni a Cicchitto, Quagliariello, Lupi e Alfano. E prosegue a pagina 9 Francesco Merlo. Le bestie della fattoria hanno preso calcioni di mulo, ma le metafore della finta politica evocano adesso l'aggressività dei falchi guerrieri, Verdini, contro la strategia pacifista delle colombe, Alfano, e c'è pure la ferocia dei lupi, Capezzone, contro l'astuzia delle volpi, Schifani. Via via animalizzando, senza alcun rispetto per le fiabe, si arriva a Io sono la pitonessa. Schifani si crede volpacchiotta ma è volpino, per non parlare dei corvi che svolazzano, Cicchitto, anche se ovviamente in questa saga della zoologia politica c'è solo la bestialità e non c'è la politica. E scrive ancora Merlo, Berlusconi sa che nei tempi morti della sua sovranità la Santanchè si è presa al ruolo del mulo che tiene tutti svegli e sottomessi, e la signora non si deve offendere, perché è vero che non c'è meglio delle favole animalesche per dire la verità, e per esempio nella favola del lupo e dell'agnello, chi non la sa, ci stiamo dentro tutti. Perciò la favola di Berlusconi e il mulo va presa come quella della formica e della cicala, o quella del corvo e del fico. Certo, c'è del disprezzo nel permettere al mulo di eccitare i cari animali della sua fattoria, mentre lui decide con Confaloniere e con Marina, la quale è la delfina, appunto, che ovviamente la Santanchè onora come cavallo di razza, ma in privato definisce, con un tocco di iena aggraziata, un Berlusconi senza sorriso. E vi leggo le ultime righe. Ecco, potrebbe essere uno spasso se non ci fosse di mezzo l'Italia. Infatti è vero che il mulo piace di più persino a noi, perché non ha la stupida nobiltà del cavallo e l'ineluttabile somaraggine dell'asino. Non è fedele per necessità di sopravvivenza, ma è sempre forte e disobbediente. In questo senso la Santanchè sarebbe un capolavoro di mulo se desse il suo bel calcione anche a Berlusconi. Non si era mai visto, infatti, parola di Merlo, un mulo governato come un asino. Un po' di ironia, insomma, però poi alla fine il senso è sempre quello. Forse dovremmo tutti essere un pochino più seri, perché come si va ripetendo da più parti, c'è appunto questa ripresa che sarebbe seriamente da agganciare. Ma veniamo sempre in tema di crisi a un altro approfondimento della Repubblica, pagina 11, un'intervista all'economista Nouriel Roubini, che insegna alla New York University. Secondo Roubini, con la crisi lo spread tornerebbe a quota 300, perché già oggi i mercati possono punire l'Italia. Oggi naturalmente lunedì riaprono le borse. Alcuni virgolettati dell'intervista di Roubini: il governo è apprezzato a livello internazionale, ora Berlusconi per calcolo personale rischia di far saltare tutto. Le conseguenze: il buon momento di Piazza Affari si interromperà, i titoli bancari saranno penalizzati, i costi del credito torneranno a salire. E un accenno sul debito: dubbi sulla sostenibilità del nostro debito. Se dovesse venir meno la fiducia, non si può escludere la necessità di una ristrutturazione radicale. Dopo Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Repubblica, visto che oggi si può tracciare il bilancio della prima giornata di Serie A, vediamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che titola sull'Inter. Sapete, ho fatto il mio coming out qualche settimana fa, io sono interista, però insomma è stata un po' la sorpresa di ieri, no? Tutti avevano il terrore che l'Inter perdesse, almeno noi interisti. comunque il titolo è Scatto Mazzarri, c'è poi un'intervista a Moratti che dice Eto'o, vediamo, vedremo se torna, e poi l'altro titolo sulla prima pagina, Che Napoli, con un bel punto esclamativo, Maestro Benitez scatena Hamsik. Vi segnalo un'intervista a Gigi Buffon che rivela: il 2011 fu un anno critico, volevo lasciare la Juve ma Conti mi ha convinto a restare. E dalla Gazzetta dello Sport, dove naturalmente trovate tutti gli approfondimenti su tutte le partite di sabato, di ieri, e poi qualche ipotesi su quello che succederà stasera, l'ultima partita della prima giornata, che è Fiorentina-Catania, e poi la triste conclusione della Louis Vuitton Cup. Ieri la Emirates Team New Zealand ha vinto l'ottava regata e ha vinto 7-1, ha raggiunto per prima le sette vittorie e quindi ha eliminato Luna Rossa, che così si prepara già, secondo Max Sirena, come ha dichiarato in una breve intervista alla Gazzetta, Max Sirena, lo skipper di Luna Rossa, si sta già preparando alla prossima sfida. Ora però bisogna vedere chi poi vincerà davvero questa Coppa. Emirates Team New Zealand ora è pronta a sfidare i detentori, gli americani di Oracle. La prima pagina della Stampa, anche qui un titolo politico, Letta, la crisi ora una follia, e c'è un editoriale di Mario Calabresi, direttore della Stampa, che si intitola Le priorità degli italiani. E però vi segnalo la fotonotizia che è dedicata a Mark Tyson, questa notizia la trovate anche sugli altri giornali, non con tanta enfasi in prima pagina. L'ex campione mondiale di pugilato Mike Tyson ha, in una intervista in televisione di estrema sincerità, ha detto mi sto uccidendo di alcol e droga. E quindi la Stampa ha una grande foto di Mike Tyson con quel suo tatuaggio che lambisce tutto il suo occhio sinistro e dice: il grido di dolore, sto morendo. Dalle pagine interne dall'editoriale però di Mario Calabresi, vi dicevo, vi leggo le prime righe: che spreco di risorse e di energia, gli annunci di una imminente crisi di governo provocano incredulità e sconforto, di tutto avremo bisogno tranne che di gelare i fili d'erba della ripresa, di affogare nel caos e nelle paure i primi segnali positivi che la nostra economia mostra da anni. Invece si sta materializzando la minaccia di buttare via ancora una volta progetti, iniziative, accordi e testi di legge che sono stati costruiti faticosamente in questi 4 mesi. Prendete un pezzo qualunque della vostra vita che ha bisogno urgente di essere aggiustato, dalla scuola dei vostri figli ai crediti che devono essere pagati all'azienda in cui lavorate, e immaginate di rinviare tutto, di schiacciare il pulsante pausa per ripiombare in una nuova campagna elettorale dopo pochi mesi, non solo di governo ma anche di legislatura. Se questo succedesse a causa di uno scontro insanabile sulle ricette per governare il paese, allora saremmo costretti a comprenderlo. Ma qui invece non ci sono tracce di un'agenda alternativa, di un programma politico diverso per il futuro dell'Italia. E l'editoriale del direttore della Stampa Mario Calabresi prosegue poi a pagina 22. Ma vediamo la prima pagina del Giornale, anche qui il titolo è sulla crisi di governo ed è però Sinistra coda di paglia. Chiede responsabilità al PDL ma fugge dalle proprie e non rinuncia all'alleanza con i PM. Sull'IMU il PD nicchia, il centrodestra tiene duro. Gli articoli in prima pagina di commento, uno del direttore del Giornale Alessandro Sallusti e l'altro di Vittorio Feltri, che si concentra sulla questione dell'IVA. Abbiamo visto, il governo è ammesso che duri, ha ancora qualche settimana per decidere, ma appunto Vittorio Feltri anticipa i nodi di questa questione IVU. Il partito delle tasse, c'è la ripresa, subito i cretinetti aumentano l'IVA. Vi leggo le prime righe. I signori del governo hanno appena finito di dirci che la crisi sta per concludersi, dato che si intravedono pallidi ma incoraggianti segni di ripresa, e già meditano, anzi programmano, di aumentare l'IVA di un punto, dal 21 al 22%. Però, che soddisfazione. Nel darci la brutta notizia, hanno precisato che il ritocco dell'imposta è indispensabile perché mancano alcuni miliardi di euro alla quadratura del bilancio. Una panzana, considerato il fatto che i conti dello Stato non sono in pari dai tempi in cui Berta filava. E prosegue poi a pagina 7 l'articolo di Vittorio Feltri e ancora una volta ci fa riflettere su questa dicotomia tra alzare le tasse, d'accordo, entrata immediata, però una tassa in più, soprattutto una tassa come l'IVA, deprime i consumi e quindi meno consumi, meno IVA sui consumi che non ci sono. Quindi è un po' veramente un paradosso da cui bisogna avere il coraggio di uscire, prendere una strada o l'altra. Ma dalla prima pagina del giornale vi segnalo anche un articolo interessante di Nicola Porro, vice direttore del giornale, che si occupa di quei super scontrini di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi. Come quello da più di 100 euro dei quattro turisti a Venezia in piazza San Marco. È interessante il suo ragionamento, perché sicuramente sono notizie che appunto conquistano i titoli dei giornali, però c'è da chiedersi: se i prezzi sono esposti, sostanzialmente, ci dice Porro, qual è poi lo scandalo? Uno sceglie, non è una sorpresa, sa esattamente che cosa avrebbe pagato. E quindi titola Nicola Porro, un po' provocatoriamente, però ripeto, dovremmo riflettere su questa, perché sicuramente usa degli argomenti interessanti, titola "Ma che super scontrini, è la legge del mercato". E vi leggo la parte quasi finale dell'articolo, che prosegue a pagina 12. I maggiorenni che hanno comprato caffè a Venezia, acqua a Positano e succhi di frutta in Sardegna, tutti appunto, ricordo, scontrini da più di 100 euro, che poi il giornale ci riporta di nuovo fotografati, appunto Venezia o Cara, il caffè in piazza San Marco, dove sono stati spesi 100 euro e 80 centesimi per quattro caffè, di cui uno corretto, tre amari, però c'era il supplemento musica. Quindi scrive appunto Nicola Porro, i maggiorenni che hanno comprato caffè a Venezia, acqua a Positano e succhi di frutta in Sardegna possono votare, stipulare un contratto, fare un figlio, abortire, divorziare, aprire un'impresa, assumere personale e comprarsi anche una pistola. Ma per quale ragione non siano in grado di stabilire la loro migliore convenienza su come spendere i loro quattrini, qualcuno ce lo deve spiegare. Insomma, non si vede per quale motivo economico e sociale si debbano tutelare questi signori dal loro errore, se tale si giudica, posto che hanno a disposizione in tutti e tre i casi milioni di comportamenti alternativi e più economici da tenere. La concorrenza esisteva, e come? Tipo prendere il caffè al banco, portarsi l'acqua da fuori, scegliere un'altra località per il proprio svago e via discorrendo. Il punto fondamentale, conclude Porro, è che ci stiamo abituando a rivendicare una moltiplicità dei diritti, anche il caffè a prezzo calmierato, senza neanche supporre che prima c'è un dovere all'informazione, e pretendiamo poi di essere deresponsabilizzati nelle nostre scelte. L'abbiamo buttata giù un po' dura per soli tre scontrini, ma temiamo che sia il termometro di una società che chiede, forse inconsapevolmente, di essere sempre meno libera, o più banalmente pretende che lo Stato sani i suoi errori. Ma vediamo la prima pagina del Messaggero, anche qui il titolo è tutto politico, il PDL, via l'IMU o subito la crisi. Abolizione della tassa della casa, sapete che si dovrebbe decidere definitivamente nel Consiglio dei Ministri in programma per mercoledì, e oggi però si annuncia battaglia sul decreto per la pubblica amministrazione. C'è poi un approfondimento che trovate solo sul Messaggero su un'altra voce importante della famosa spending review, che è quella che riguarda i tribunali. Scattano i tagli, soppressa una sede su due, spariscono 947 uffici giudiziari. Il ministro Cancellieri dice nessun rinvio. Tante volte appunto si è parlato di questa importante razionalizzazione dei tribunali, ma poi sono stati più volte rimandati questi tagli. E a pagina 8 e 9 il Messaggero fa veramente un approfondimento con tanto di mappa dell'Italia, con anche la nuova mappa, cioè come cambierà la geografia dei tribunali nel nostro paese. La prima pagina dell'Unità, anche qui titolo politico, Letta due punti, la crisi è una follia. Il Premier ha risposto così alle minacce di Arcore, ma il Cavaliere va avanti. Questa volta, come diceva anche il Messaggero, c'è un po' anche questo tema dell'IMU. L'IMU o cade il governo? Quindi al di là dei temi giudiziari ci sarebbe appunto anche questa questione importante dell'IMU. Dall'Unità vi segnalo anche, richiamato in prima pagina e poi l'approfondimento occupa tutta la pagina 9, un osservatorio sulla legalità, che spiega come la corruzione sia un business che frena l'economia. A buon senso possiamo probabilmente pensarlo tutti, però qui ci sono i dati che mostrano come appunto economia ed etica, la corruzione fa male due volte. Tra l'altro questa classifica, che è la fonte è l'Eurobarometro ed è un'elaborazione della società Tecné sui dati 2012, ci fa anche capire come il nostro paese stia tra l'altro peggiorando in queste classifiche, perché nel 2008 eravamo al 72esimo posto per corruzione, oggi siamo al 55esimo. Vi segnalo anche la prima pagina del giorno, anche qui apertura politica, il governo balla sull'IMU e poi un'intervista a pagina 6 al politologo francese Fitoussi che dice siete finiti in trappola, non c'è soluzione. L'Italia è in una trappola senza uscita, ma l'instabilità non peserà sui conti. Ecco, quindi due opinioni diverse, avete visto Rubini su Repubblica e qui invece Fitoussi che tra l'altro insegna, Jean-Pierre è un economista francese, anche un politologo, e insegna sia a Parigi all'Istituto di Studi Politici di Parigi, ma è anche docente alla LUIS di Roma. Secondo Fitoussi non ci sono soluzioni, in questo caso politiche, e sarà comunque una figuraccia per l'Italia. Vi segnalo anche la prima pagina del Secolo XIX, anche qui l'apertura politica con il focus sull'IMU, il titolo è Via l'IMU del tutto, cade il governo, e poi però dal Secolo XIX un interessantissimo approfondimento di Marco Cubeddu, visto che un altro tema di questi giorni in questo agosto è quello dell'immigrazione e dell'integrazione. Sono un gitano, non chiamatemi ladro, e Marco Cubeddu ci racconta la storia di Fabio Franchini, che è il gestore di una mini scuola ad Arenzano vicino a Genova ed è un gitano, un rom, e spiega come si possano integrare anche magari i bambini che magari crescono un po' in questa cultura che tutti semplicisticamente pensiamo che vengano allevati per rubare, e Franchini ci spiega come nessuno viene allevato per rubare, soprattutto nasce con la mentalità di ladro, e come si possano integrare anche con successo i figli di queste famiglie rom che spesso vivono un po' ai margini della società nelle nostre città. Dal Fatto Quotidiano, che anche in questo caso il Fatto Quotidiano del lunedì è un po' staccato dalla cronaca e più dedicato agli approfondimenti, lo vedremo magari dopo nel dettaglio. Il titolo è Viva la crisi, c'è chi non conosce sacrifici anche, anzi detengono un patrimonio stimato di 260 miliardi, sono i ricchi che viaggiano in fuoriserie e divorano migliaia di euro al ristorante, dal 2001 al 2012 sono aumentati del 4,5%. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della rassegna stampa. Eravamo sul Fatto Quotidiano, che dedica un approfondimento alle persone, ai super ricchi, che dal 2001 al 2012 sono aumentati del 4,5%, e alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano trovate appunto gli approfondimenti di questa ricerca, e anche un po' ironica su quelli che vengono chiamati i vizi capitali: aereo privato, casa cortina a Forte dei Marmi, un tavolo fisso da cracco, l'ombrellone al Twiga di Briatore o al bagno Piero, e con alcuni esempi appunto di questi extra super stralussi, come una borsa Birkin Hermès in coccodrillo che costa $90,000, una Ferrari del 67 27,5 milioni di dollari, o per esempio lo yacht Eclipse di Roman Abramovich che costa addirittura 1,2 miliardi di dollari. Anche il Foglio del lunedì, come sapete, è staccato dalla cronaca. In questo caso il Foglio del lunedì raccoglie quello che secondo i giornalisti del Foglio è un po' il meglio della stampa della settimana precedente. Poi c'è sempre un editoriale di Giuliano Ferrara. Oggi si intitola Il bivio del cavaliere, ascoltare l'istinto politico, quello che dicono gli avvocati. Come sempre interessante, ve ne leggo l'ultima parte. Gli avvocati sono serviti a tenere aperta la strada della politica, delle elezioni, della protezione di un'esperienza pubblica e di governo. Entro certi limiti, onore a loro. Ma entro certi limiti, perché poi, alla resa dei conti, la miglior difesa possibile era quella politica. E la migliore delle migliori sarebbe stata una profonda riforma della giustizia, per tutti, che invece non arrivò mai. E non era nell'interesse dei giudici, ovviamente, e forse nemmeno degli avvocati. Ora, in questo intrico di paure, di cavilli, di infamie, di mascalzoni, ai danni di un leader che si vuole estromettere con mezzi impropri dal campo di battaglia, riemerge la questione. Faccio quel che mi dice il mio istinto e senso politico, oppure faccio quel che mi suggerisce la corte dei miei avvocati? Rovescio il tavolo perché mi prospettano la galera e ulteriori persecuzioni delle procure, in aggiunta al vulnus della sentenza Esposito? Oppure faccio pesare la mia indispensabilità e rilancio, secondo l'ipotesi Pannella, una battaglia generale preparandomi ad affrontare senza altro avvocato che non sia il consenso che raccolgo nel paese le conseguenze di quanto mi accade? Punto interrogativo, e finisce così l'editoriale di Giuliano Ferrara, che quindi è tra i tanti che si chiede, senza avere una risposta, che cosa succederà a questo governo e quali saranno soprattutto le prossime mosse di Silvio Berlusconi. Ma vi segnalo dalle pagine interne del Foglio anche un approfondimento che riguarda una questione di cui ci siamo occupati tanto, perché se ne è occupato molto il Fatto Quotidiano, che è quella delle navi da crociera che entrano a Venezia. È molto interessante questo excursus fatto da Il Post, quindi da giovedì 22 agosto, che il Foglio Quotidiano ripubblica, che prende un po' in esame tutti i dati che vengono, insomma, buttati lì, ma che forse poi qualcuno dovrebbe prendersi la briga di verificare. Il Post l'ha fatto e, per esempio, scopriamo che quando quella foto famosa del 27 luglio scattata da Roberto Ferrucci con questo passaggio della Carnival Sunshine, questa enorme, gigantesca nave da crociera che sembrava veramente a pochi metri da Piazza San Marco, ecco, in realtà la Carnival Sunshine è passata a 72 metri di distanza dalla banchina. Se si fosse avvicinata a meno di 40 metri sarebbe uscita dal profondo canale destinato all'imbarcazione della sua stazza e si sarebbe insabbiata. La nave, inoltre, non era alla guida del suo capitano, ma da un pilota della capitaneria del porto di Venezia ed era trainata da alcuni rimorchiatori. In altre parole, all'interno della laguna di Venezia, incidenti come quello della Costa Concordia sono piuttosto improbabili. Le navi procedono trainate a una velocità tra i 3 e i 6 nodi, tra i 5 e i 10 km all'ora, e vista la scarsa profondità della laguna, possono procedere soltanto seguendo dei profondi canali che all'interno della laguna stessa funzionano come dei binari. E l'ultima parte poi dell'articolo di Davide Maria De Luca riguarda il tema economico dell'indotto, perché tutti dicono appunto che questo turismo crocieristico in realtà è importante per Venezia. Chi sostiene che non debbano essere aboliti questi passaggi, c'è chi invece dice che non è poi così importante. Bene, Davide Maria De Luca riassume alcune ricerche. Nella migliore delle ipotesi sarebbe un indotto da 365 milioni di ricavi all'anno, nella peggiore di 290, che insomma non è comunque poco. È interessante appunto ogni tanto fare quello che gli americani chiamano un fact checking, cioè vedere veramente al di là appunto delle notizie e delle fotografie che sicuramente attirano l'attenzione, poi come stanno davvero le cose anche dal punto di vista economico. Vi segnalo dalle pagine interne del Corriere della Sera invece un approfondimento. Sapete che io sono molto attenta alle notizie che riguardano gli animali. Ecco, in questo caso c'è un articolo di Danilo Mainardi che cerca un po' di aiutarci a interpretare il linguaggio dei cani. Il sopracciglio in su è amore, così i cani parlano ai padroni. L'orecchio sinistro esprime invece distanza verso un estraneo. Ci sono anche quattro disegni per farci capire che riprendono naturalmente un esperimento, perché poi queste sono cose forse che i padroni hanno tutti sperimentato, ma qui c'è un esperimento appunto che viene anche riassunto con un disegno di questa rivista che si chiama Behavioral Processes. C'è anche un piccolo editoriale di Vivian Lamarck, poetessa e anche appunto che spesso scrive sul Corriere della Sera, quando il mio gatto mi teneva il muso. Dalle pagine interne invece della Repubblica un approfondimento sulla Siria. Abbiamo visto la Repubblica ce l'ha in prima pagina. Siria sia gli ispettori dell'ONU, gli USA però gelano Assad. Adesso è troppo tardi. Secondo la Francia ci sarebbero le prove per l'utilizzo delle armi chimiche, e la Repubblica ripubblica quelle foto scioccanti appunto dei bambini morti per questo presunto attacco chimico. Dalla pagina interna della Repubblica anche una notizia che non ho trovato su altri quotidiani riguarda l'Alto Adige. C'è stato un accordo tra la provincia di Bolzano e il governo e verrà tolto la traduzione italiana da 135 nomi. Se chi è stato in Alto Adige, insomma, sa che spesso queste traduzioni suonano un po' improbabili. È una cosa molto antica che risale a tantissimi anni fa. Ora, appunto, ad alcuni nomi la cui traduzione è veramente un po' così, un po' inutile, se vogliamo, verrà tolta la traduzione. Vi segnalo anche dalla Repubblica un approfondimento di Elena Dusi sulla fecondazione assistita. Ci sarebbe quella che lei chiama, semplificando un po', la fecondazione low cost, 200 euro per avere un bambino. È una tecnica dove in Belgio, che è sperimentata, già attuata in Belgio, che ha già portato a 14 nascite. Naturalmente molti pericoli quando si tratta di questioni così delicate dal punto di vista etico e della salute. E però appunto Elena Dusi ci ci dà questa notizia, approfondisce i dati che vengono da questa tecnica sperimentata già in Belgio. Repubblica approfondisce, poi anticipa un po' quello che sicuramente sarà un tema di cui ci occuperemo moltissimo nelle prossime settimane, sono le elezioni tedesche previste per il 22 settembre. Bernardo Valli lo definisce un voto per l'Europa. Dalle pagine interne della stampa invece un approfondimento sull'Egitto, ne abbiamo parlato tantissimo nelle scorse settimane, oggi per esempio la notizia non c'è su nessun giornale, cioè un approfondimento, su un aggiornamento su quello che sta succedendo in Egitto, tranne che sulla stampa. Due pagine di reportage, pagine 12 e 13. Di Giovanni Cerruti, che è inviato al Cairo, il triste risveglio del Cairo, 2 anni di rivolte per nulla, coprifuoco, controlli, nessun turista, la capitale è ferma, la piccola borghesia boccheggia. Quindi ecco appunto un approfondimento su quello che sta succedendo adesso che i riflettori si sono un po' spenti e Cerruti ci ricorda che il Cairo ha 9,2 milioni di abitanti, è una delle città metropoli più popolose del mondo e ha 11,5 milioni di turisti, quelli che hanno visitato il Cairo e l'Egitto nel 2012, che hanno portato 9,9 miliardi di dollari. Naturalmente sapete uno degli effetti delle rivolte che ci sono state al Cairo e in altre città è stata quella di mettere a rischio il turismo, che è la principale voce di entrata per il paese, dell'economia del paese. Dal Messaggero un aggiornamento invece, visto che ormai purtroppo sono quasi finite per tutti le vacanze, del Codacons: sarebbe partito quest'estate solo un italiano su due, sono restati a casa in 33 milioni e le spese complessive sono scese del 7,2%. Moltissimi anche gli altri approfondimenti, abbiamo ancora soltanto un minuto. Vi segnalo allora dal Corriere della Sera una notizia così un po' per i romantici forse. Sara e il principe Andrea presto di nuovo sposati, il secondogenito della regina Elisabetta che risposerebbe tra poco la moglie da cui si era separato 17 anni fa. Se volete approfondire il tema di Luna Rossa c'è un bellissimo articolo di Gaia Piccardi a pagina 51, la luna tramonta ma prenota subito la prossima sfida. E dalle pagine interne di Repubblica ancora invece nella sezione della cultura il primo di una serie di approfondimenti sul tradimento, sul tema del tradimento nelle coppie, e questa la prima a parlarcene è Franca Valeri, intervistata da Leonetta Bentivoglio, ci spiega come ha tollerato le amanti dei suoi mariti. Era l'ultima notizia che ho tempo di darvi, vi do appuntamento a domani e ora il GR. Buona giornata a tutti.